35. Quel che premeva il colonnello Ethan Allen. Essere trattato da gentiluomo. Guai a chi si fosse permesso il contrario. Poteva rispondere con arguzia a chiunque lo provocasse, ricco o povero, amico o straniero. Non aveva potuto studiare tanto. Tuttavia, sapeva parlare e convincere. Le dita erano tozze, ma pizzicavano le corde giuste. Aveva reso memorabile la presa di Fort Ticonderoga. Impresa ritenuta impossibile, pronunciando una frase perfetta. Si era fatto consegnare il forte nel nome del grande Geova e del Congresso Continentale. Una grande frase, di quelle che rotolano oltre l'equivoco, forti di un solo significato. Ethan Allen camminava sospinto dal dito di Dio. La sua fama era appena uscita di casa e dietro la collina già s'alzava la luce di leggenda. Il colonnello Ethan Allen era un conquistatore e quella era la sua strategia. Nel nome di Geova? Non proprio. Ethan non credeva al Dio degli anglicani né a quello dei papisti. Non credeva al Signore della Bibbia, irato vendicatore e mandante di stupri, carneficine e saccheggi. Il suo Dio era forza superiore che regola l'universo e lo si pregava con la ragione, non coi salmi o mangiando pane sciapo. Il Dio di Ethan era intelligenza che imbriglia e organizza la natura. L'ente illuminava l'uomo e lo metteva in grado di affermare la libertà. Quel che premeva il colonnello Ethan Allen, essere trattato da gentiluomo. Subito dopo la presa di Ticonderoga si era recato a Filadelfia, dove il congresso era in seduta permanente. Aveva preteso di essere ricevuto e intervenire di fronte ai rappresentanti. La nuova tappa della sua strategia? Quei signori non potevano non accogliere l'uomo che combatteva in loro nome e in quello di Geova. Come fare un torto al Golia delle verdi montagne? Ethan aveva fatto spargere la voce del suo arrivo. Nelle vie di Filadelfia la folla si accalcava per vederlo. Nella sua orazione aveva chiesto il riconoscimento dei Green Mountain Boys come forza belligerante, alleata dell'esercito continentale. A quei banditi divenuti eroi spettava la medesima paga degli altri soldati. Aveva reclamato il loro diritto a scegliere sotto quale ufficiale servire. In cambio, avrebbero continuato a rischiare la vita per la causa della libertà. Il congresso si era consultato col generale Schuyler e aveva accolto ogni richiesta. Il problema di Ethan Allen. La gamba era talvolta più corta del passo. Restava sospesa a mezz'aria. Ricadeva e tirava con sé tutto il corpo. Ethan temeva quei momenti. 23 di settembre del 1775, una sera come nessun'altra, lungo la riva orientale del San Lorenzo. Le idee affollavano la testa. La più ardita di tutte? Prendere Montreal. Lo aveva convinto il maggiore John Brown, un colpo di mano, un'azione audace piena di spirito. Prendere Montreal con le sole forze dei loro uomini. L'ultimo colpo di scalpello, aveva pensato Allen. Terminare il capolavoro iniziato a Ticonderoga 5 mesi prima. Prendere Montreal prima del generale Montgomery. Battere sul tempo l'esercito continentale. Non aveva ancora pronta la frase, il verso, il distico in prosa guerriera, tondo, levigato, da dire al momento giusto, proiettile di sillabe sparato fino a Londra. Tutti avrebbero ripetuto quelle parole. Non di meno, prima occorreva metterle in fila e ogni sillaba contava, ogni brandello di immagine da soffiare verso il nemico. Quando si elabora un grande tema, è necessario curare anche i minimi dettagli. Ethan Allen avrebbe attraversato il San Lorenzo a Longueuil in una notte senza luna e raggiunto Montreal da nord. Brown avrebbe attraversato a La Prairie per poi scendere da sud. Al primo affacciarsi del sole, premendo sui due lati, avrebbero stretto Montreal in una morsa. No, l'immagine non era quella giusta. Tirando sui due lati, l'avrebbero schiusa di forza. Come i battenti di un armadio, strappati dai cardini a mani nude per impadronirsi della storia. L'unica preoccupazione? Che la gamba fosse tanto lunga da coprire il passo. La notte era al fondo di un pozzo. Nulla affiorava. La coltre, d'aria fredda, pesava sul collo e le spalle. Ethan sentiva sulle mani i piccoli morsi del vento. 110 uomini, tra cui 80 canadesi disposti a combattere coi patrioti. Le canoe erano poche e dovettero fare 3 viaggi, col pericolo d'essere sorpresi a cavalcioni del fiume. Un piede a Longueuil, l'altro a mezz'aria. La traversata del San Lorenzo impegnò tutta la notte. Di fronte a loro, lo sguardo non trovava appigli. L'albero era ancora una bava di lumaca, quando Allen mise sentinelle tutti intorno al campo. Aveva attraversato il suo Rubicone. Chissà se Cesare l'aveva detta subito, la frase più celebre. Era nata spiccando il volo dalle labbra o era stata pensata a lungo, modellata dal condottiero, la lingua a tirare di scherma coi denti? Il dado è tratto. Perfetta, lucente, immortale. Allen si risolse ad attendere il segnale. Tre grida a pieni polmoni sarebbero uscite dalle gole degli uomini di Brown, aprendo squarci nei vapori dell'alba. Gli uccelli già facevano le prove d'orchestra. Allen tese le orecchie. Due ore dopo metà del cielo era bagnata di luce. La rugiada si dissolveva, abbandonava i campi e ancora non s'era alzato nessun grido. Dov'era finito Brown? L'idea era stata sua, il colpo di mano, l'azione audace. Allen si guardò attorno. Negli uomini si andava perdendo la voglia di combattere, lanciarsi nel futuro imminente come orsi su un favo di miele. Una notte di traversata e ore di attesa fiaccano i nervi, inumidiscono la polvere pirica che accende il fuoco. Era tutto un battere di piedi, scrollare le spalle, sfregarsi le mani e sbadigliare. Si guardavano di sottecchi, parlavano a mezza voce, indicavano Allen con brevi cenni del capo. Allen ne fu certo. Brown non sarebbe arrivato. Non potevano averlo scoperto. L'area e il San Lorenzo avrebbero portato l'eco di scontri. Non aveva nemmeno attraversato il fiume. Non c'era e basta, inutile chiedersi come mai. Il Rubicone era alle spalle, ma il dado era tratto a metà. Il piede era pesante e nel cadere sbilanciava il corpo. Intanto l'azzurro conquistava il cielo. Allen carezzò l'idea di tornare indietro, riattraversare il fiume Ocra, rimettere piede a Langueil. Impossibile. Sarebbero corse ore, il nemico li avrebbe scoperti. L'unica cosa da fare era mantenere la posizione. Ma fino a quando? Ethan sospirò. La giornata dei misteri e delle scelte impossibili. Il nemico sarebbe arrivato. Dare battaglia, dunque.